Ed è di nuovo Popolare Network da Genova, in studio Piero Scaramucci e Giovanni Dognini. Piero, allora, questa partenza della manifestazione dei migranti? Non abbiamo più notizie, nel senso che ci siamo lasciati una mezz'oretta fa con i nostri inviati che raccontavano di questo grande e straordinario assieparsi di gente, qualcuno diceva 20.000 persone, chi lo sa, in strade strette e si faticava a partire. Perché c'era gente che arrivava e sarebbe arrivata dalla direzione che è quella che avrebbe poi preso. Sono le 8:52 minuti, cari ascoltatori, e quello che vi ho fatto ascoltare, insomma, un piccolissimo frammento, ci riporta indietro decisamente di 10 anni. 19 luglio 2001, vi ho fatto sentire l'inizio proprio della diretta del corteo dei migranti. Penso che chi c'era quell'anno a Genova, quel luglio a Genova, se lo ricorda bene. Insomma, è stato un corteo coloratissimo, partecipatissimo, che ha sfilato per le vie. È stato anche l'ultimo momento di pace in quella settimana genovese. Allora io do il mio buongiorno a Marco Trotta. Ciao Marco. Buongiorno a voi. Perché domani al TPO, al centro sociale TPO, ci sarà un ragionamento a più voci a 10 anni da Genova. Io ho voluto, Marco, significativamente partire diciamo da l'ultima manifestazione in cui quei contenuti si sono potuti esprimere, diciamo, perché poi dal 20 di luglio, insomma, c'è anche un'altra storia da raccontare. Però vorrei che tu ci dicessi innanzitutto domani che cosa accade al TPO? Sì, beh, domani accade che un appello che abbiamo lanciato una settimana fa, 2 settimane fa, in giro per la città, ha cominciato a raccogliere firme e adesioni per partecipare sostanzialmente a una giornata, a una serata, dove cercheremo di raccontare a più voci quello che è stato Genova nel decennale. E poi anche provare a disegnare il futuro. Quello che ha unito un po' tutte le persone che si sono ritrovate in questo appello è che sostanzialmente molte delle tematiche, se non tutte, che hanno riguardato Genova 10 anni fa sono assolutamente attuali e scrivono e riguardano il futuro di questo paese e non solo di questo paese. E quindi in qualche maniera cercheremo un po' di ragionare su temi come i beni comuni, i diritti civili, i diritti dei migranti, le questioni ambientali, tutte cose che erano ben presenti nei temi di cui si è discusso 10 anni fa a Genova, tra l'altro anche prima del 19, perché lo spazio del forum sociale era cominciato il 16 a Punta Vagne. Ed è importante riprendere queste discussioni se vogliamo un po' riannodare i temi che poi riguardano il futuro e che sono anche di stretta attualità questa mattina. Infatti la domanda che ti volevo fare era questa. Tu pensi che il movimento Nottava, insomma tutta anche questa parte di mobilitazione, è figlia naturale di quella riflessione? Ma io credo che ci sono meccanismi, sono stati definiti cartici, credo che sia una buona definizione, per la quale in qualche maniera temi che sono passati attraverso quelle giornate poi sono arrivati fino a noi. Sicuramente i NOTAV sono un movimento che non si può definire NIMBY. Io vedevo ieri dei video di persone che addirittura lo dicevano pubblicamente, poliziotti che erano davanti, sono persone che sostanzialmente concepiscono il fatto che quel tipo di opera è antistorica, perché non servirà più a costruire un progresso civile per il futuro per tutti, ma semplicemente porterà ulteriore devastazione ambientale, sociale ed economica. E questo si è capito, perché 10 anni fa si disse semplicemente: guardate che continuare con questo modello di sviluppo porterà questi problemi. Se questo è il tema, sì, probabilmente è figlio, e non è figlio soltanto di quello. Io penso che gli indignati in piazza portano avanti molte delle tematiche che riguardavano quell'aspetto lì, una in particolare, quella della sovranità e delle democrazie, e poi ci sono altre cose tipo l'ambiente, i diritti civili, insomma sono tutte questioni che in qualche maniera oggi devono essere riadunate tra di loro e farne una narrazione collettiva, se vogliamo in qualche maniera provare a continuare a cambiare questo stato di cose. In 10 anni però, Marco, è cambiato un po' tutto anche nel cosiddetto movimento, cioè diciamo che quello la forza propulsiva che c'era quell'estate è sostanzialmente, cioè si è sostanzialmente schiacciata a agosto, come dire, no? Sì, perché poi sono successe molte cose e credo che la giornata di domani servirà anche a provare a dare delle risposte. Ovviamente chi ha proposto questo appello le risposte non ce l'ha, ha vissuto questi 10 anni, che ovviamente ha vissuto quelle giornate come molte persone in questo paese, però siamo più interessati a capire quali sono stati i ragionamenti collettivi che sono stati fatti in questi anni da vari ambiti, alcuni che sono quelli storici che c'erano, altri che sono nati. Perché appunto ci interessa anche capire tutte quelle persone che per motivi di anagrafe non sono venute, che cosa ne pensano oggi di questo decennale, e provare a capire un attimo se ci sono stati errori, se possiamo chiamarli errori, se ci sono state delle cose che invece vanno riprese in mano. Quindi in qualche maniera è questo oggi il tema, non tanto dare risposte ma farsi delle domande collettive. Ancora adesso è il metodo più importante inaugurato da Genova in poi, cioè quello di un lavoro dal basso in tutti gli ambiti, alla pari tra tutti i soggetti diversi, e credo che sia stato anche il motivo per il quale ha portato tante persone a Genova. Ecco, l'incontro è rivolto non solo a chi a Genova c'era, però penso che sia molto più complicato coinvolgere anche a un incontro del genere persone che magari 10 anni fa avevano 13 anni e adesso invece, che ne so, stanno con gli indignados in piazza. Sì, questa è una questione che ci siamo posti, dopodiché molti di noi in realtà in questi 10 anni non sono stati a casa a fare altro, si sono impegnati nelle varie lotte che ci sono state, e ce ne sono state tante, alcune hanno avuto successo, altre no, alcune sono state sulle pagine dei giornali, altre no. Quello che però posso dire è che adesso che continuo a incontrare persone e situazioni, ho avuto degli incontri in alcune scuole di Imola, sono stato con gli indignati in piazza, vedo che comunque c'è un interesse verso questa cosa. Per qualche motivo, quando il tema accade su Genova, si sente qualcuno che ha una storia da raccontarti. Ed è questo ancora il motivo principale per il quale credo che sia utile discuterne pubblicamente. Ci sono ragazzi di cui non mi ricordavo per niente, che si ricordavano invece dei dibattiti che abbiamo fatto 10 anni fa e poi hanno inaugurato dei loro percorsi personali. Credo che sia la cosa più importante, che in questo momento è il patrimonio più importante sul quale possiamo contare per un futuro migliore. Ricorda l'ora e il luogo dell'appuntamento. Ma allora, ci vediamo domani, è davvero un invito a tutte e tutti, alle 18.30 al TPO di via Caterini 17/5, ci sarà un momento di riflessione, poi un aperitivo insieme e poi un dibattito. Ci sarà anche un momento nel quale faremo un collegamento da Genova, così ci faremo raccontare che stanno organizzando lì nel decennale. Non ci facciamo mancare nulla, perché ci sarà anche una diretta Twitter e una diretta in streaming audio video, e quindi siete tutti quanti caldamente invitati a partecipare. Grazie, buona giornata. Grazie. Ciao Marco. Marco Trotta, ciao. L'appuntamento di domani al TPO a 10 anni da Genova. Pronto? Sì, non posso stare troppo al telefono, scusa, siamo pochissimi qua dentro. Aspetta che apro. Sì. Quello che sentiamo è Paola, che avevamo sentito prima dall'Information Media Center a Genova, il luogo diciamo dove il forum aveva il suo punto operativo. Paola, cosa sta succedendo? Mi stanno ascoltando. Come sono arrivati, la strada è in discesa, sono arrivati di botto, dalla discesa si stanno assaltando. Noi siamo due scuole, una di fronte all'altra, nell'altra ci si dorme solo, non noi, altre persone. Sono arrivati, stanno sfondando i cancelli, stanno tirando. Guarda, è una situazione insostenibile. Chi è che vi sta assaltando? La polizia. La polizia? Sì. È tutta polizia, è arrivata a piedi, di corsa, sbucando dall'angolo, quindi senza neanche un preavviso, nulla. Noi adesso ci stiamo barricando dentro, il problema dell'altra scuola dove ci sono anarchici e squatter e in questo momento li stanno massacrando. Ma quindi questo sta avvenendo nella scuola di fronte a dove siete voi e nella nostra, e anche stanno cercando di entrare anche nella nostra. Noi stiamo cercando di sbaraccare tutto, stiamo togliendo tutta la roba. Io vi devo salutare perché comunque dobbiamo essere assolutamente tutti quanti presenti. Ancora 10 anni fa, ancora la diretta che Popolare Network fece lungo tutti quei giorni, ci sono vari CD che sono stati prodotti dopo quelle giornate. Uno ve lo sto facendo ascoltare adesso ed è il nostro CD Microfoni da Genova, che raccoglie proprio le fasi più salienti di tutte quelle giornate, partendo dal lunedì, come ci ricordava Marco Trotta. Insomma, il forum sociale era partito all'inizio della settimana con i suoi convegni, i suoi appuntamenti di riflessione. L'altro invece, Cofanetto, Cronache, sono 5 CD di Popolare Network, che altrettanto, insomma, è un libro fotografico, raccontano tutto quello che è accaduto in quei giorni. Io immagino che avrete capito che questa parte di diretta era quella che è andata in onda verso le 23:50 del sabato notte ed è l'inizio dell'assalto alla scuola Diaz. Parlavamo anche di libri che sono usciti qualche settimana fa. Vi abbiamo fatto sentire le voci di Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci, il loro libro è Genova, l'eclisse della democrazia. Altri testi sono usciti, uno è quello di Alessandro Mantovani, giornalista che ha lavorato per anni al Manifesto, dove ha potuto seguire i fatti appunto della Diaz e adesso lavora alla Corriere di Bologna, e il suo libro edito da Fandango si chiama Diaz, processo alla polizia. Sentiamolo in questa intervista. È stato, è perché ancora in corso, un processo ai vertici della polizia, nel quale i vertici della polizia, anche le persone fisiche che non erano direttamente imputate nel processo, si sono sentite in dovere e in diritto di difendersi, di difendere il corpo in modo molto forte ed energico. In questo senso, processo alla polizia, forse sarebbe anche meglio dire la polizia sotto processo. Ovviamente il processo Diaz è un processo a persone fisiche perché la responsabilità penale è personale. Nel processo per i fatti della Diaz sono imputati dirigenti che all'epoca e tuttora hanno ruoli di vertice nell'amministrazione centrale della Polizia di Stato e in particolare nella Polizia Criminale. L'imputato più alto in grado oggi è prefetto Franco Gratteri, è il direttore della divisione anticrimine centrale della Polizia. Sono lui ed altri i dirigenti diretta emanazione dell'allora capo della polizia De Gennaro, ma difesi a spadatrappa dall'attuale capo della polizia Manganelli. L'operazione alla scuola Diaz chiude il secondo giorno di manifestazioni e di scontri. I manifestanti stanno ripartendo da Genova, molti sono alla stazione quando c'è questa irruzione, questa perquisizione, questa cosiddetta perquisizione nella scuola, che è un po' l'ostello, il dormitorio concesso dal comune di Genova ai manifestanti. Davanti c'è un'altra scuola che è il quartier generale del Genova Social Forum, che organizza le manifestazioni. L'irruzione a mezzanotte porta all'arresto di 93 persone che sono quasi tutte ferite, alcuni sono imputati delle lesioni procurate a queste, persone, altri dei reati di falso che vengono commessi per arrestarli, come indicare nei verbali che due bottiglie Molotov sono state trovate all'interno della scuola, come sostenere che i 93 hanno fatto resistenza. Gli imputati sono 28 nel processo d'appello, 27 condannati, alcuni appunto per le violenze, perlomeno per non averle impedite, e altri per aver commesso o fatto commettere reati di falso. Che cosa pensi di essere riuscito a ricostruire nel tuo libro? Perché c'è tutta una parte che segnala anche le difficoltà che hanno incontrato i magistrati nel fare questo tipo di indagine, anche nella raccolta delle prove, perché poi le persone insomma vanno processate sulla base di prove. E allora spiegaci che cosa pensi sia il valore aggiunto di questo libro. Questo processo è uno scontro feroce tra i magistrati dell'accusa e gli imputati, ma verrebbe da dire tra i magistrati dell'accusa e i vertici dell'amministrazione della polizia, perché i pubblici ministeri e i poliziotti normalmente le indagini le fanno insieme, qui i magistrati si trovano a indagare sui poliziotti e i poliziotti non la prendono bene, collaborano poco sia loro che la loro amministrazione di appartenenza e hanno anche nel processo l'atteggiamento per cui la magistratura dovrebbe permettersi fino a un certo punto di entrare nel merito delle scelte operative che si fanno. Quelli che per l'accusa sono lesioni volontarie e falsi, consapevolmente commessi, per gli imputati e per la polizia sono tutt'al più errori operativi dovuti alla tensione di quei giorni. Nessuno nella polizia si aspettava che la magistratura andasse fino in fondo, cercasse di individuare responsabilità di vertice. Quello che ho cercato di raccontare è questo scontro che non avviene soltanto sui fatti del G8 di Genova, ma che avviene in tante vicende nelle quali i corpi, gli apparati di polizia, di sicurezza danno, o almeno alcuni loro settori danno l'impressione di tollerare molto poco i controlli che la magistratura fa e le responsabilità che la magistratura di tanto in tanto individua. In questo scontro che descrivi tu tra quello che è un potere autonomo e quello che è invece è un corpo dello Stato e che però sembra anche usare propri codici, avere anche un proprio patto di fedeltà interno, dal tuo punto di vista le responsabilità sono emerse nel processo o ci sono ancora delle zone grigie? Ci sono moltissime zone grigie intese come fatti che non sappiamo, che riguardano l'operazione della Diaz e più in generale la gestione del G8 di 10 anni fa a Genova, ma molte responsabilità sono emerse, anche responsabilità di carattere non penale. Io sono molto colpito dal modo di difendersi che hanno avuto questi poliziotti, cioè di non quasi tutti di non presentarsi in aula, di non rispondere in aula alle contestazioni. Addirittura il capo della polizia Manganelli, quando viene sentito come testimone nel processo, trova modo di rispondere al pubblico ministero Zucca, che lo sta interrogando, che prima di parlare dovrebbe informarsi su come funziona la polizia. Io penso che quell'episodio dia conto del fastidio, quasi dell'idea che l'apparato sia intoccabile e come tale si difende. Nessuno di questi imputati, dei principali perlomeno, si è fatto interrogare in aula. La Procura Generale di Genova sostiene che c'è stato un ordine gerarchico di non presentarsi in aula per non essere costretti ad ammettere responsabilità dei superiori. Io sono convinto che di tutto questo si sia parlato troppo poco. Una parola invece la vogliamo anche riservare alle vittime, le persone, tutte molto giovani, per la maggior parte straniere, che erano lì. Nel tuo libro parlano i verbali del processo, cioè le testimonianze di queste persone, e già solo la testimonianza nel processo descrive una ferita, insomma, difficile da rimarginare, proprio anche le parole che utilizzavano. Ci sono... Molte di queste persone, sono 75 gli stranieri, quindi la stragrande maggioranza erano stranieri. La sensazione che si riceve da queste persone è quella di essere esposti a un arbitrio totale, quello che tutto può accadere. Io ricordo che quella notte davanti alla Diaz, quando fu portato fuori un sacco con il materiale sequestrato, ci fu chi gridò che c'era dentro un morto. Cioè, in quel momento in Italia si pensava che la polizia potesse anche nascondere un morto. La sensazione che queste persone hanno trasmesso in aula quando sono state sentite come testimoni, ci sono stati anche tentativi di non sentirle tutte queste persone al Tribunale di Genova, è lo sgomento, il terrore di fronte all'arbitrio. Io mi sono limitato a pubblicare alcune delle deposizioni in aula, senza andare a cercare testimonianze a distanza di 10 anni di queste persone, perché credo che si debba dar conto del fatto che il processo è stato l'unico luogo in cui le parti si sono in qualche misura incontrate, anche se, come abbiamo detto, i poliziotti quasi tutti non c'erano al loro processo. Credo che queste persone abbiano avuto un risarcimento dal processo che c'è stato a Genova, al di là dei discutibili risarcimenti economici. Non credo che complessivamente sia stata fatta giustizia, nel senso che, al di là delle responsabilità penali, le responsabilità dei fatti di Genova sono anche ovviamente rimaste fuori dall'aula di tribunale, che invece delle responsabilità penali può occuparsi. Io credo che c'erano altre sedi in cui le vittime e anche i responsabili, i presunti responsabili, avrebbero dovuto spiegare il loro punto di vista, spiegare che cosa è successo. Purtroppo non è avvenuto, c'è stato soltanto il processo. Proprio in questo momento le agenzie danno una specie di bollettino, come dire, dei numeri dei feriti, soprattutto di oggi. Massimo Rebotti. Sono 77, per ora non sono gravi tutti, lo diciamo molto chiaramente, si tratta di 77 feriti non gravi, sono un terzo in più rispetto alla giornata di ieri alla stessa ora, e questo ovviamente un conteggio ancora assolutamente provvisorio. Di questi 77, 66 sono manifestanti, 4 sono giornalisti e 7 sono agenti delle forze di polizia. Dal pronto soccorso del Genoa Social Forum fanno sapere che ci sono un'altra ventina di manifestanti che sono stati medicati nelle piazze e che poi comunque per ferite non gravi. Questi sono i numeri, diciamo così, parziali alle 17:20 da Genova. Angelo Miotto, dove ti trovi? Io sono sempre nella mia zona, cioè in Corso Torino, dove appunto ieri erano avvenuti gli scontri, e qui hanno chiuso completamente uno degli accessi da Lugo alla Massicciata per Brignole, hanno chiuso tutto il corso Torino con molta molta polizia. I manifestanti stanno tornando indietro e incomincia un vero e proprio, li prendono uno per uno o a due a due, se li portano via, cioè sono dei ragazzi che dicono ma non c'entriamo niente, hanno il casco in mano, questo veramente è un discrimine per i poliziotti, scusa. Sì, ho visto, tre ragazzi, un altro l'hanno preso, gli hanno sbattuto sul casco, gli hanno fatto togliere le scarpe. Ne hanno preso un altro dalla cabina del telefono, ne hanno presi un altro che ho visto che stava uscendo dalla galleria. Come escono dalla galleria li pinzano subito. Ecco, scusa Angelo, tu dici l'hanno preso, gli hanno tolto il casco, è gente col casco, è gente semi armata questa che prendono? No, parliamo di gente col casco o gente senza casco, visto uno che usciva con un cappello molto strano, un zainetto in vista. Ok, quindi preso, e io non l'ho più è indiscriminata detto, la cosa, non si rivolge a chi è bardato da. Questo è il quasi come se fosse il saluto di commiato, visto che qualcuno già dovrebbe dirigersi, credo, anche verso la stazione o comunque sia, molti iniziano a defluire da queste gallerie, sono schierati, hanno fatto due blocchi e pescano. 9:17 minuti, la voce di Angelo Miotto, che era uno degli inviati di Popolare Network 10 anni fa nelle strade di Genova. Questo è invece il sabato, quindi il giorno della grande manifestazione dopo l'uccisione di Carlo Giuliani in piazza Limonda, insomma quella manifestazione che i numeri del tempo dati dal Genova Social Forum calcolarono in 200.000 persone, comunque una risposta di piazza molto grande e altrettanto grande fu però insomma la repressione quel giorno della polizia con cariche spesso indiscriminate, insomma ci sono immagini che probabilmente molti di voi conservano negli occhi. E un altro dei testi che si trova in libreria in questi giorni si chiama La ferita, Genova 2001-2011, cronache da un sogno infranto, l'ha scritto Marco Imarino, che è un giornalista del Corriere della Sera che io saluto perché è in diretta con noi. Ciao Marco. Buongiorno. La ferita è quella che tu imputi al movimento, insomma quell'anno si chiude un'epoca ma non se ne apre più un'altra, è questo che tu sostanzialmente scrivi in questo libro? Ma non proprio, nel senso che la ferita è quella inferta al movimento No Global da Genova, quello sicuramente. Il titolo non è null'altro che la citazione dell'ultima strofa della canzone di Francesco Guccini su Piazza Limonda. Io ho cercato di non fare un libro solo sul G8 di Genova, benché vi abbia messo molte delle cose che ho vissuto in quei giorni e che non ho avuto modo di scrivere, insomma. In questo senso è anche un libro magari abbastanza personale, ho cercato di fare un passo più in là e di vedere come la ferita di Genova ha influito sulla parabola del movimento No Global, per cui il sottotitolo 2001-2011 è proprio è abbastanza veritiero, nel senso che io faccio un excursus negli ultimi 10 anni, cerco di capire come quella ferita ha condizionato il movimento No Global, cerco di capire se è stata davvero una ferita definitiva, a mio avviso no, se ci sono state altre occasioni per ripartire, per ricominciare e perché poi questo non è avvenuto, perlomeno è avvenuto in maniera non proprio compiuta, anche perché adesso noi stiamo parlando di un movimento che tra il 2000 e il 2002, il movimento No Global, era sulla bocca di tutti, era un movimento sicuramente un movimento di protesta come tutti i movimenti, forse destinato a rimanere incompiuto come tutti i movimenti, era un movimento che aveva anche una straordinaria, a mio avviso, capacità propositiva e questo lo rendeva diverso dagli altri. Nel triennio che va dal 2000 al 2002 è sulla bocca di tutti, è corteggiato da tutti. Ecco, la sua parabola è stata brevissima e intensa. 10 anni dopo non resta quasi più niente di quel movimento, non resta più traccia nella società italiana di quel movimento. Eppure ci sono tutta una serie di esperienze. Se vogliamo proprio citarle, se vogliamo citare la più eclatante, a mio avviso, il comitato referendario sull'acqua, che raccoglie molto dello spirito nasce da lì, certo. e fatto da molte persone che stavano a Genova, erano quelli di Attac, se qualcuno si ricorda. Da lì nasce l'idea del comitato referendario per l'acqua e secondo me quell'esperienza di politica di democrazia dal basso, di politica fuori dalle istituzioni, che però riesce a cambiare il corso della politica dentro le istituzioni, è il miglior esempio, è l'esempio del miglior spirito di Genova. Una domanda, parliamo ad esempio del NOTAV, per dire, c'è qualcosa che accomuna con quello spirito? Beh, tanto per stare in argomento, guarda, io proprio stamattina ero al telefono con tante persone perché mi chiedono conto di alcune cose che ho scritto, di alcuni commenti che ho scritto sul Corriere della Sera, su quello che è successo in questi giorni in Val di Susa. Il movimento NOTAV, secondo me, è molto peculiare, ha alcune caratteristiche che lo rendono diverso dagli altri. Innanzitutto c'è un gruppo, uno zoccolo duro, direbbe qualcuno, molto forte, ovvero gli abitanti della valle, che sono fortemente concentrati sulle loro esclusivamente sulle loro sulla loro vicenda, cioè gli interessa fondamentalmente di non avere quest'alta velocità, punto. Al tempo stesso però la spina dorsale del movimento è fatta da alcuni centri sociali torinesi, a Scatasuna e altri, per capirci, storici centri sociali torinesi, che hanno inserito questo movimento in un network, in un circuito più ampio, definendone un po' l'identità, a mio avviso. Quello che è successo ieri a Chiamonte, secondo me, è inaccettabile, è stato preordinato, è stato studiato. E se tu mi chiedi, il movimento NOTAV ha dei punti di contatto con lo spirito di Genova, ha alcuni dei protagonisti di Genova, quelli di Scatasuna c'erano anche a Genova, io sinceramente a ritirare fuori la parola black bloc ho un moto di stizza. Secondo me black bloc non esiste, e forse anche di rabbia, diciamo, no, per come quella parola poi è servita. Sì, sì, di rabbia, secondo me black bloc è una parola adottata per convenzione da noi giornali. Il black bloc non esiste, lo sappiamo bene. Il black bloc è il ragazzo che ti serve il caffè al mattino e che sa di essere condannato a rimanere legato a una macchinetta del caffè per tutta la vita, perché non ha prospettive di vita, e si travisa, come dicono i mattinali di questura, e decide di scagliarsi contro la polizia. Questo, se vogliamo, io non ho mai trovato l'Associazione Nazionale Black Bloc, non esiste, è un moto spontaneo, e proprio per questo è difficile da incanalare, è qualcosa con la quale dobbiamo avere a che fare, e io temo che dovremo confrontarci con certe realtà, di disagio sociale sempre più spesso, con una rabbia di natura greca, se così vogliamo, proprio perché figlia della crisi economica, figlia di una frustrazione che diventa sempre più evidente. Però devo essere sincero, il movimento NOTAV in questo momento non mi fa venire in mente, ecco, se tu mi dici ti fa venire in mente Genova, no, mi fa venire in mente una vicenda locale ben caratterizzata. Sicuramente rappresenta parte del ritorno a casa, del ritorno sul territorio che è avvenuto con Genova, ma il movimento NOTAV c'era già prima, c'è stato anche dopo, certo. E non vedo grandissimi punti in comune. Un'ultima domanda, Marco, torniamo allora alla ferita, perché questo, come dire, non è un libro strettamente giornalistico per come è scritto. Vorrei che tu facessi capire ai nostri ascoltatori come l'hai scritto, perché c'è un po' anche del romanzo, forse, o no? Ma ti ringrazio, sì, ma non è fiction in realtà, sono tutte cose vere, sono, sai, quando io lo scrivo nelle note finali di ringraziamento, quando tutti i giornalisti bene o male sono reduci, e io sono sicuramente reduce di quella stagione, nel senso che è l'esperienza professionale che più mi ha colpito. Io credo di essere l'unico giornalista italiano che ha avuto in sorte di seguire il movimento No Global prima, durante e poi dopo, e per dopo parlo gli 9 lunghi anni dell'inchiesta, quindi credo di conoscere quella vicenda abbastanza bene. Certamente decennale è stata una spinta, perché me l'avevano sempre chiesto di scrivere un libro su queste vicende e non avevo mai accettato. Poi ho deciso semplicemente perché il libro è concepito come un libro di pancia, c'erano alcune cose che volevo dire, alcuni episodi che volevo raccontare, che erano anche successi a me, e che trovavo in qualche modo esemplificativi, difatti della valenza di quello che era accaduto a Genova. Difatti io non faccio una cronistoria, io non credo di essere depositario di alcuna verità ufficiale, non ho intenzione di scrivere un resoconto minuto per minuto, non avevo intenzione di scrivere un resoconto minuto per minuto di Genova, però volevo, raccontando alcune storie di personaggi e di incontri, rendere l'atmosfera di quei giorni. Ecco, da un lato c'è quindi questa cosa qua, io lo considero un privilegio questo libro, mi sono tolto un peso dalla pancia, e tutta la parte su Genova, che è molto personale indubbiamente, è tesa a dare l'idea dell'atmosfera di quei giorni, dell'attesa, della preoccupazione, poi del disastro e poi della rabbia, anche del dolore, anche della... non trovo la parola adesso, di questo sentimento misto, perché c'è la speranza che tutto va bene, che tutto vada bene, e il timore che non accada, e poi quando accade il peggio c'è questa sensazione terribile. Ecco, io l'ho raccontata per immagini, e questo credo che sia la parte, diciamo, più personale. Forse ho voluto fare un libro impressionista su Genova, e al tempo stesso poi ho saldato il racconto, sempre attraverso anche esperienze personali, perché ho seguito il movimento per più di 10 anni, il racconto di questi ultimi 10 anni, ovvero dal Forum Sociale di Firenze, racconto il trauma dell'11 settembre, che è un trauma non solo per il Movimento No Globe, il Forum Sociale di Firenze, la grande discussione sulla quale si lacera il movimento, sulle pratiche, sui modi per dimostrare il dissenso, la disobbedienza civile, ovvero il modo di stare in piazza, via, che da un lato allontana prima le associazioni cattoliche, poi crea una separazione sempre più netta, il rapporto con la politica, ovvero questo rapporto, secondo me, promiscuo e irrisolto che il Movimento No Global ha avuto con la politica. Ci fermiamo qui, Marco, ci fermiamo qui, perché noi siamo a ridosso del giornale radio e quindi dobbiamo chiudere. Però io voglio ricordare che il tuo libro e quello di cui abbiamo parlato pochi minuti fa, Alessandro Mantovani e Diaz, Processo alla Polizia, verranno presentati domani a Bologna, che è anche il motivo per cui noi ne abbiamo voluto parlare oggi, alle 18 alla Feltrinelli, quindi insomma ci sarà anche modo di continuare a discutere con te. Per il momento grazie. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Marco Imarisio, giornalista del Corriere della Sera, La Ferita è il suo libro sul decennale di Genova. Sono le 9:29. Noi abbiamo parlato molto in questa ora di Angolo B, prima puntata della settimana. Adesso c'è il giornale radio di Popolare Network e poi la rassegna stampa questa mattina condotta da Pino Cacucci.